Ed è proprio disordine quello che oggi riempie le menti mia e dei miei sodali, che questa sera sto per presentarvi in una puntata un po' particolare di OGM, perché oggi veramente daremo i numeri. E per dare i numeri bene, con me ci sono l'altro padrone di casa, Marco Gualdi. Ciao. Stavo ascoltando in differita per vedere se era vero che parlavi, insomma, che stessi parlando al vuoto. Invece no, sei vero. Sono vero, incredibile. Io sono vero anche io, adesso ci sono anche io. Fammi sentire la diretta. Sì, ecco, sto entrando. Sto per presentarvi, ecco. Partito, portavo un tamazza quanto parli, già mai rotto, basta. Okay, ma quindi no. Siamo avanti nel tempo di quanto? 30 secondi più o meno? Parecchio, perché siamo un sacco avanti. Con noi da altri piani spazio-temporali ci sono Lobby Frontali, Francesco, che vi ricordo essere il dirimpettaio di finestra di Marco Gualdi, ma solo ed esclusivamente quando il Molise è su questo piano dimensionale, corretto? Sì, a fasi alterne sì. L'importante è esserne consapevoli. E dalle Puglie, perché ci piace sempre raddoppiare, con noi Carmine Puccio Console. Esatto. Puglia, più di una, come io sono Carmine Puccio, cioè abbiamo Puglia A e Puglia B. Sei Carmine. Più come diceva più mio di zio, una. Anzi come dice mio zio quando parlava del suo folto harem, moglia una, moglie due, mogli più di due. E con questo vi lascio, permettetemi, alla sigla speciale di oggi, poi spiegheremo bene perché. Ed eccoci con questo sottofondo, questo tappeto musicale, come l'ho appena definito, a microfoni spenti, Francesco. Perché oggi che giorno è? Sarebbe pieno di acari. È pieno di acari. Ma oggi sarebbe facile, Marco, dire è il 25 maggio. Ma cosa vuol dire che oggi è il 25 maggio? Chi me lo sa spiegare? Smetti di cioccolare col microfono. È un giorno che viene dopo il 24 maggio, esatto. E prima del 26, questo sicuramente. Questo vuol dire che per venire il 25 maggio c'è bisogno che almeno due giorni precedente e il successivo vengano contemporaneamente, altrimenti se ne è solo uno non viene, non c'è il rischio che venga. Ma io più che altro ogni 25 maggio mi preoccupo che qualcuno non voglia costruire autostrade dove non deve. Sì, infatti, tipo al posto della Terra. Vabbè, attraverso il sistema solare. Io voglio ricordare una cosa. Allora, oggi di cose ne succederanno tante, però dobbiamo promettere, per un discorso istituzionale, che non leggeremo poesie Vogon. No. O perlomeno ci proveremo. Sì. A non leggerle. Ci bastano i report di Gualdi dalla finestra, secondo me. Beh, quelli sono a livello. I riassunti di Gualdi sono come un'opera Vogon in 4 volumi, per farvi capire. Però, insomma, quello okay. È ormai anche un trascorso che non vorremmo, come dire, reiterare un'altra volta. Però, insomma, perché parliamo di poesie Vogon? Perché parliamo di autostrade? Perché parliamo di demolizioni spaziali? Perché oggi è il giorno del. Come lo possiamo definire in italiano? Il giorno dell'asciugamano? Il giorno degli asciugamani. Il giorno dell'asciugamano. Il Tower Day, il giorno del niente panico, il giorno della risposta universale alla vita, all'universo e tutto quanto, che è? 42 ragazzi, 42. Oggi è il giorno del 42 tra le altre cose. Mi auguro che tutti gli ascoltantoni di OGM, che oggi vedo in chat essere talmente numerosi che proprio non li conto nemmeno, perché veramente sarebbe fare tutta la diretta solo a dire quanti sono in chat. È schifo, veramente, in questo lunedì di post-Covid, di post-epidemia e di post-tutto, perché daremo tantissimi numeri, daremo i numeri legati a Guida Galattica per autostoppisti, perché ovviamente non ci possiamo esimere, daremo i numeri che la scienza, la somma scienza dell'assessore Gallera, si dice Gallera, mi confermate? Gallera. C'è una L di troppo. Secondo me è Waller. No, quello è moto a luogo però, con una L sola. Io non lo so, secondo me è Waller. Waller, l'assessore Waller. Waller di sì. Raffaele, sì, classico. Potrebbe darsi. Nel frattempo è arrivata Girasole, che salutiamo. Vedi che c'erano, solo che sono timidi. Ciao Girasole. E perché, insomma, il mitico assessore, che ormai praticamente ha bruciato anche, come dire, il ruolo di assessore per antonomasia a quello che noi ricordiamo essere Paolo Cevoli, con delle cose veramente agghiaccianti che dopo cercheremo di andare un attimo a riassumere. Io sono ancora agghiacciato, ma poi ne abbiamo anche altre, no? Perché com'è, Marco, com'è sta cosa dei dinosauri? Allora, i dinosauri ben 65 milioni di giorni fa, penso, no? Una cosa del genere, non tantissimo, ragazzi, no? Sì. Sono sulla Terra. Sì. No, cazzi loro, cioè. Mi pare anche giusto, insomma. Sì, si mangiavano tra di loro. Facevano distanziamento sociale. Esatto, arrivava il mammut, si mangiavano il mammut, arrivava lo scoiattolo, si mangiava lo scoiattolo. E però è arrivato l'uomo nella terra dei dinosauri, perché c'era appunto la terra dei dinosauri. Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi, certo. Esatto, c'era un famoso scopritore di terre di allora, che non so come si chiama. Scoprivatelo su Educational Channel. Colombo è venuto dopo, mi sembra. Comunque è vero, ma il tenente. Tenente Colombo, esatto. C'era un esploratore che ha trovato la terra dei dinosauri, è arrivato e gli uomini li hanno estinti tutti, perché si mangiavano l'uova, si li ammazzavano. Sono morti di salmonella, sono morti. No, esatto, aspetta, scusa, ma non erano mammiferi i dinosauri? Sì, erano dei mammari. Io sapevo che erano mammoni più che altro, no, però... anche mammoferi. No, ma comunque fatto sta che, cioè, se ho capito bene, pelli di dinosauri le vendevano, capito? Arrivano questi lì che ammazzavano i dinosauri, vendevano le pelli di dinosauri. Poi c'erano i nativi dinosauri, i nativi rettiliani, se non sbaglio, che erano quelli che abitavano nella terra dei dinosauri. Dicevano: oh, voi ci state rubando le terre, venite qui ad ammazzarci i dinosauri, noi come facciamo? Vi trombate le nostre donne, no? Esatto, rapite le nostre donne, stuprate le nostre donne, date fuori i nostri villaggi, fate imparare la vostra lingua ai nostri figli. Ci rubate il reddito di dinosauranza. Quindi, siccome questi erano diventati scomodi, gli hanno fatto ascoltare un disco di Albano e si sono suicidati in massa come Dodo, giusto? Finisce così la storia? Più o meno così, cioè di mezzo Albano, cioè di mezzo qualche cosa di dirompente, e da un giorno all'altro si sono estinti. Hanno fatto il ballo del qua qua su un burrone, praticamente. Pure Albano. Albano in realtà è un asteroide. Scusa, Lobby, che dici di Albano? No, in realtà Albano è un essere extra. In realtà, per quanto riguarda, cioè, sai, quella teoria del che la vita è nata da una genesi, come si chiama? Bravo, mi sono dimenticato, ora mi sfugge anche a me come si dice. Praticamente la vita è nata da Gerola, non ho capito, scusa, puoi ripetere? È nata prima da Geova, sì, Geova. No, non è nata da Geova. Spermiogenesi. Praticamente prima non c'erano i mammiferi, poi è arrivato un asteroide e questo asteroide era Albano. Albano ha distrutto i dinosauri e poi ha... Scusa, che dalla regia purtroppo abbiamo dei disturbi. L'asteroide era Albagno? Albagno, sì, però è finita la carta igienica, perché in lockdown qualcuno non gli è andato. Si sa che durante il lockdown la carta igienica non si trova. Tutto torna. Per sicurezza, scusate, per sapere bene la storia, o stavo googlando Albano distrugge dinosauri. Sono arrivato ad Albano distrugge Din e l'autocompletamento mi suggerisse Osauri, quindi vediamo, perché se ovviamente... lo dice Google. Sembra quasi Google, la trama di Iron Sky 3. Vero, è assolutamente vero. Vabbè, insomma, cioè, ragazzi, l'ha dichiarato lui stesso ieri a Domenica In, ha detto, cioè, l'uomo ha distrutto i dinosauri, te pare che distrugge un virus. Se l'ha detta Domenica In, tutto torna. Un verme, mi raccomando. Allora, la cosa difficile sarà andare dal virus e stuprargli le mogli, rubargli il territorio, ammazzargli i bisonti del virus. Cioè, è un po' più difficile. Allora, Marco, io ti devo togliere un attimo la parola perché oggi succede qualcosa di incredibile. Perché in chat c'è anche l'Alabai che tra l'altro ci dice 4-5-28-45-76. Dopo approfitteremo. Però qui, ragazzi, è la prima volta che le quote rosa superano le quote dei maschietti in chat. Questa è una cosa da festeggiare. E lo facciamo, sapete come? Con un contributo che noi abbiamo preparato, perché abbiamo esordito con la questione dei dinosauri di Albano. Parleremo a breve del teorema del delirio che ha investito la Lombardia. Ma prima abbiamo il dovere morale di farvi sentire questo contributo. Lo so, vi manda in puzza. 17:27, vi manda in puzza. Vi manda in puzza, è un problema. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi. Vi insegno a guidare, quando il semaforo è rosso si fa così, tac, gli imbocchi qua, glieli giri qua, fratelli, così. Vada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli, ho preso il muro, fratelli, te dico fermate, fratelli, ho preso il muro, fratelli, oggi do anna così, ragazzi, se vi siete salvati la diretta, siete miardati, fratelli, no, ho preso il muro, fratelli! Fratellini, avevamo preso sto muro, Gualdi, dimmi una cosa, Gualdi, ma tu... Dove andare così, Gualdi? Fratelli, terza marcia, fratellini. Guardi, ma tu con la tua super Gualdi car, li fai una piotta e 10 in terza marcia? Dimmi la verità, fratellini, li fai 110 con la terza? La macchina è in grado di prendere muri ad altissima come a bassissima velocità, non si fa problemi, ragazzi, guarda. Anche da ferma. Esatto, flick o flock, Puccio. Prendono lei, esatto. Ma ragazzi, la mia prende gli asteroidi, non so se ve lo ricordate, prima di Natale è arrivata la tegola dallo spazio che mi ha bucato il tetto, penso che fratelli mi spiccia a casa, lo posso dire? No, quelli sono stati i Vogon che volevano che io recitassi una poesia per il scarso apprezzamento. Prove tecniche per l'asfaltare la terra, praticamente. Ok, quello è un pezzo d'asfalto spaziale che sembra un'arma di Goldrick, però va bene, ragazzi. 27, fatemi salutare 27. Un secondo, perché ci ha raggiunto ai microfoni il nostro Leo Vargon. Vargon. Ciao Leo. Hai preso la G, fratelli? Ho preso la G. Fratelli, non c'è problema, fratelli, non c'è problema. Oggi danno a così, fratelli. Oggi danno a così, ragazzi, siamo tutti di Ponte Galeria. Tra l'altro, a fratelli nel frattempo gli hanno sequestrato la macchina, lo sapete, sì. È pure la patente. E gli hanno fatto coriandole di patente, fratelli. Dove andrà così? Oggi è proprio così. Vuoi un momento di notorietà virale? E poi ne paghi le conseguenze. Tra l'altro, stavo raccontando a Marco Gualdi oggi, mentre sorseggiavamo una simpaticissima lemon soda, che dalle nostre parti è successo qualcosa di simile, nel senso che in una curva un po' particolare del comune di Mentana, qualche sera fa, tra l'altro proprio sotto la finestra di un mio caro amico, un tizio è arrivato un po' allegro, proprio a modalità fratelli, ha preso male la curva, ha preso il muretto, ha spaccato tutto, se n'è andato bestemmiando e sgommando, perché ovviamente non si è voluto fermare, ma non si è reso conto che sull'aiuola, comunque nella parte di muretto che aveva preso con la fiancata della macchina, ci ha lasciato la targa. Ah beh, se per lui non è un problema, fratellino, non penso che sia per nessun altro. No, infatti gliela sono andata gentilmente a riportare i carabinieri e così, insomma. E si sono riportati via il resto della macchina. Penso proprio di sì. Che gli hanno detto oggi dove andare così, fratellino. Dove andare così, fratelli, dove andare così. Non c'è problema, ragazzi, 110, una piotta, 3 piotte, 4 piotte, 5 piotte, 42, tutti nu, basta che sono numeri, stasera basta che sono numeri, fratelli. E pure le sorelle lì, perché in chat ci stanno pure le sorelle lì. Ragazzi, non ce le possiamo dimenticare. No, io credo che penso siano comunque fratelli. Penso che comunque siano comunque fratelli, in ogni caso, cioè ormai si usa soltanto quel termine per indicare qualsiasi forma di vita. Sesso. Esatto. Comunque, in realtà, chi è che aveva postato poi sul gruppo il video con gli excursus precedenti di sto soggetto nel mondo di internet, tipo quando si è travestito da corriere per far scendere uno di casa e menarlo? Sì, questo è un personaggio in cerca d'autore, insomma. La mano colpendo il portone perché deve essere sveglio. Ma la vera domanda a me mi ha reso dotto su questo personaggio Giuseppe Pugliese, quindi forse è stato lui. No, lui fino ad oggi non sapeva come mi ricordo in realtà su un altro canale, quello di Techno Pills, proprio uno di quelli là più indicati per questi contenuti. E lui tipo aveva detto: non sapremo mai il nome di questo. Ma come non sapremo ma mai come? Il nome? Gli ho riportato celebre. Il link che si chiama Algero Corredino. E ha detto: cazzo, fratellino, non lo sapevo, fratellino. Era meglio se non sapevo. Doveva andare così, fratellino. Doveva andare così. Ma per citare anche, diciamo, un celebre brano di Frankie High Energy, degli Infarinati, no, quelli che ben pensano. Ma quanta se ne sarà fatta quel pomeriggio? Perché ricordiamo che dal video si capisce che era un giorno pieno, neanche a dire, sai, in mezzo alle 3 di notte dopo una nottata di follie. No, lui era proprio nel pieno del pomeriggio della giornata a Ponte Galeria. Per la cronaca, chi non sapesse, la zona dove si è svolta questa ridicola scena è quella di Ponte Galeria, quindi praticamente la via Magliana Vecchia, ecco, per citare la zona di Roma per chi la conosce, che è un posto tranquillo per tutti, insomma. Sì, tranquillo. Sì, sempre un posto scicchissimo peraltro. E pronto? Sentiamo rumori al cane. Walter, non ti sento più. Rumori aliene, sì, infatti. No, io ci sono, io credo di esserci, anche se... Ok, perfetto, no, dicevamo, no, insomma, che... scoppietti, Walter, non ma so come altro definire il suono. Credo che sia il mio computer che sta gestendo la regia, che non ce la fa più, è una soluzione, è una cosa a cui dovremmo dare una soluzione prestissimo, però per stasera ormai va così. Va così, fratelli, dove andrà così stasera? Dove andrà così? Mi dispiace, ma dove andrà così? Dicevo, ma quanta 17, se ne sarà 27, fatta? 17, ricordi, non devi abbassare la testa. Abbassa la testa. 17 grammi, dici, o 27 grammi? 17 e 27 uguale, però abbassa la testa quando mi incontri. Terza marcia, andate via, 110. Tutto bene, fratelli, lo volete risentire? Ma qualcuno ha capito perché a un certo punto dice: no, non mi pagate la connessione. Che cazzo vuol dire? Cioè, te fanno le ricariche sul cellulare. Ma non lo so, forse perché stava facendo questo video in diretta. Stava facendo la diretta su Instagram, quindi probabilmente si riferiva a quello. E i gighi che andavano come fossero piotte, capito, fratelli? Esatto. Un giga, fratelli, 2 giga, fratelli, 5 giga, fratelli. Carmine, perché vuoi entrare nella sua testa? Ma perché? Non fai per sentire la sensazione del vuoto assoluto. Esatto, il vuoto pneumatico, se è scientificamente dimostrabile, il void. Ragazzi, voi scherzate. Il vuoto torricelliano. Avete presente uno che si tatua i mitra in faccia? Tra lui e Young Signorino, non so chi sta messo peggio, per ricordare, insomma. C'è tutta una cricca di amici, il brasiliano, tutta gente che sta sfonnata peggio di lui, e litiga in continuazione. Ma a me me l'ha reso noto un ragazzo che seguivo cioè io lo conoscevo questo, ma lui mi ha reso erudito su questa dimensione. Poi ho visto che pure Pizzi a un certo punto gli è presa la scimmia e ha iniziato a guardarsi tutte le risse che fanno tra di loro. Ma Lobby, comunque i ragazzini non si seguono, potrebbe essere molto problematico a livello legale. Esatto, sì. È maggiorenne, sì. Oramai è maggiorenne. Oramai è maggiorenne, però insomma, ai tempi è un po'. Guarda che cosa è successo a Kevin Spacey, insomma. Vabbè, ma quello è stato un complotto. Comunque, ragazzi, Girasole, che evidentemente ripone in noi troppa stima, mettiamola così, dice: ragazzi, non credo che nessuno di voi possa sentire la sensazione del vuoto assoluto, fatevene una ragione. E non lo so, sorelli, non lo so, doveva andare così, sorelli. Intanto salutiamo Piergi, che oggi è arrivato tardi, ma doveva andare così, fratelli. Doveva andare così. Doveva arrivare tardi, Comunque, per rispondere al tuo quesito, caro Walter, io sono molto per il teorema del sale, sostanzialmente. Se tu lo metti nelle cartucce, un piatto, questo si amalgama in tutto, capisci? Invece se lo metti alla fine si sente solo il sale, quindi secondo me se l'è sparata proprio prima di mettersi col culo sul volante, capisci? Proprio una botta secca e via, si parte 110 all'ora, fratelli. Riascoltiamolo, fratelli. Lo so, vi manda in puzza, 17.27 vi manda in puzza. Vi manda in puzza, è un problema. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi, non ci sono problemi, non ci sono problemi. Vi insegna a guidare, quando il semaforo è rosso si fa così, tac, gli imbocchi qua, gli giri qua, fratelli così. Vada fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Ha preso il muro, fratelli, ragazzi, fratelli, ha preso il muro, fratelli, una piotta 10, dove andare così, dove andare così, fratelli, che vedevo dire? Cioè io sono emozionato, più lo sento, semaforo più. Rosso, fratelli, semaforo è rosso, fratelli. Una piotta 10, terza marcia, fratelli. Che poi, per chi conosce via Salaria, nel, diciamo, nella parte finale a due corsie, quella che va verso la provincia, questa tecnica di saltare un semaforo praticamente aggirandola ad una rotonda è anche abbastanza consueta, quindi noi la conosciamo come manovra. È una manovra 8 e 10, fratelli. Dipende, fratelli, dipende, fratelli. Dipende, fratelli. No, c'è chi lo fa, fratelli. Sì. T'assicuro che c'è chi lo fa, cioè non lo. Poi doveva prendere il muro, doveva andare così. Doveva andare così, fratelli, doveva andare così. Vabbè, ma comunque, ragazzi, tornando un po' al di là di questa questione, fratelli, che poi in qualche modo riprenderemo. Noi oggi abbiamo dedicato la copertina della nostra puntata. Intanto c'è una citazione a Darren Aronofsky, non so chi la coglierà, perché se vedete bene con attenzione il frontino di Gallera c'è un pi greco sopra. Sì. Però al di là di questo, veramente stiamo a dai numeri. Carmine, cos'è che ha avuto l'ardire di spiegare, di ribadire e di confermare più volte l'assessore? Signori, quando è stato, sabato? Matematica, secondo me. Esatto. In pratica, cioè un manuale volume 1. Esatto. Delle giovani marmotte. Potrebbe dire. Esatto, ripeto, c'è una L di troppo in quel cognome. Allora, c'è una questione che è l'indice di trasmissibilità di una malattia, l'indice R. Più si avvicina a zero, più vuol dire che la malattia si sta rallentando nella fase di contagio. Che cosa indica? Indica quante persone in media può contagiare un infettato. L'indice del nostro amato coronavirus è sceso a 0,51, perlomeno in zona Lombardia. Secondo Gallera vuol dire che tu per ammalarti devi incontrare due persone infette contemporaneamente. Questa cosa l'ha detto in televisione. Com'è che dicevo? Vabbè, dai, si sarà confuso. Ma che dopo l'ha ribadito. L'ha anche spiegato. Ma come facevano notare alcune infografiche, sì, in effetti se uno tiene e l'altro ti sputa in faccia funziona esattamente così. Però quello che ti tiene non deve essere necessariamente malato, deve essere semplicemente russo. No, ma aiuta. Comunque questo è un periodo di grandi matematici, come quello lì che sul Messaggero aveva fatto la notizia. I ristoranti dovranno avere per ogni commensale 4 metri quadri di spazio. Certo. E aveva fatto lo schemetto con ogni lato era da 4 metri. No, in realtà la questione praticamente è un monolocale per tavolo, però vabbè. In realtà un minimo di senso ce l'ha, perché 4 metri quadri pare che sia la dimensione minima per le spiagge, però non per i ristoranti. Ok, ma 4 sì. metri quadri, se tu fai 4x4 hai fatto 16 metri quadri, è quello il problema. Sì. Peraltro, secondo questa teoria, io ho una casa di 420 metri quadri e ho paura che mi facciano pagare le tasse su questa cosa. La tua casa è rettangolare, quindi non va bene. Cioè, per cubo sostanzialmente. Esatto. Ah, è per cube, tra l'altro, per rimanere a citare film più o meno della stessa era, degli stessi anni del teorema del delirio che abbiamo appunto omaggiato nella copertina. Vabbè, magari dopo ne parliamo. Io comunque vorrei dire, cioè, vorrei capire bene questa cosa, perché quindi se due malati ti infettano, giusto? Quello che dice Walter. Per essere infetto devi essere esposto contemporaneamente alla presenza di due malati, sì. Uno solo. Perfetto. Un gruppo, quindi, di tre persone di cui una malata non può infettare le altre due. Se tu sei malato, ok, e incontri due persone sane, guarisci? E per la proprietà transitiva suppongo di sì a questo punto, no? Cioè, Puccio? Di sì, c'è quello. Assolutamente sì, no, ma è come la persona che oggi sosteneva che calcolando che in Lombardia ogni donna ha 0,5 figli, se vuoi fare un figlio devi andare a letto con due donne contemporaneamente. Esatto. È assolutamente ovvio. E allora io a sto punto rilancio e domando, scusate, se è vero che per ogni uomo ci sono 7 donne, perché non si tromba mai qua? perché c'è perché un pirla che ce ne ha 14, come diceva Paolo Rossi. Perché tutte e sette hanno il mal di testa. Esatto. Perché viviamo in un paese di anziani e sono vecchi. E così abbiamo distrutto le quote rosa della giornata. Penso che sia l'Alabai che gira sole, girerà in Italia, che se ne andranno indignate a breve, anche se ormai sono abituate. Insomma, ma giustamente, non solo, ma chi lo può fare? Ma infatti, ma chi ve lo fa fare? Ma questa è una domanda che poi possiamo girare anche allo stesso PRG e anche agli altri che ci stanno ascoltando, vergognandosi di ammetterlo, perché ricordiamoci che il grosso dei nostri ascoltatori ci ascolta in diretta ma non lo ammette. Esatto, detto questo, chi va su YouPorn ma non lo ammette, come quelli che votavano noi siamo il porno, esatto, o chi votava Forza Italia, stessa cosa, cioè, noi siamo un po' il porno della, della web radio. Un po' porno, ragazzi, ve lo ricordate po' porno? Ma gli fa schifo ammetterlo, no? Guardi, mi hai fatto venire in mente po' porno. Po' porno, il genio. Il genio, esattamente. Dobbiamo ripescare quel brano prima o poi, che è un po' dimenticato. Però... Walter, grazie per avermi fatto sentire vecchio, perché non mi ricordavo in che cacchio di anno fosse uscito il Teorema del Delirio. 1998. Una roba decente, è del 98. Sì, sì, sì, lo so. Era in quel periodo, lavoravo in videoteca, me lo ricordo bene, quindi insomma, vabbè. Non ricordavo più recente. No, mi dispiace. Ragazzi, a proposito di genio, pop, porno, brani, che dite se ci prendiamo un attimino una pausetta e se il nostro amato Lobby è pronto ci può introdurre il brano della giornata, della settimana, perché vi ricordo che ogni settimana Runtime sponsorizza il brano di una band emergente. Questa settimana tocca ai Califu Ground, che è una band che c'è una storia bella particolare, perché praticamente sono nati dopo la strage di Castel Volturno del 2008. Non so se vi ricordate che i camorristi hanno fatto una strage, appunto, perché c'erano degli emigranti che si erano un pochino ribellati alle loro condizioni. Allora giustamente hanno pensato, ma facciamo una mitragliata e questi sono nati dopo, ma in realtà sti Califu Ground non è solo una band musicale, c'è tutto un progetto culturale dietro particolare, a cui il capo, diciamo, l'unico membro fisso è Gianluca, mi sono dimenticato il cognome, che tra l'altro ascolteremo anche domani una puntata di Everything, perché lui c'ha una storia molto particolare, perché è stato, anticipo solo che è stato un missionario, ma è stato davvero missionario in Africa e ne ha vista di cotte di crude, poi ora non è più missionario, eccetera eccetera, e c'hanno suoni, come potrete ascoltare, molto sul reggae, molto una cosa molto, un sound molto peculiare, diciamo così. Andiamo ad ascoltare Italiani, vai col brano. Da terra la mattina sin da primo sbadiglio, è una lotta senza tregua contro il resto del mondo, e siamo tutti in fila col biglietto in mano, passo dopo passo procediamo e sopportiamo, e non c'è niente di strano, e con un colpo di mano siamo parte di uno show che ogni giorno sopportiamo, e quindi fatti un inchino, si apre e si parla, entra in scena la tua vita in uno straordinario, esibisca il documento, la marca da bordo, data di scadenza, primi premi dal spallo, c'è solo da grattare che sei fortunato, e non vincere ma un cazzo che non è giornata. Italiani con la corda al collo, pistola alla tempia, la canna del gas, l'affitto, le tasse, i figli, l'università. Italiani alla fine del mese, prestando la moglie, poi via in ospedale, gli amici in Sanremo e un anno di fame per due giorni al mare. L'Italia che viene, l'Italia che va, pistola alla tempia, un mutuo a metà. L'Italia che viene, l'Italia che va, è un'Italia che ha sempre attaccata alla canna del gas, alla canna del gas, alla canna del gas. It's about who you know. If you know, no, nobody may say you can never go. No, Puma is a protected back in the low. So Puma is always out of the road. In terms of future, come to you, are out of the road. It's a karma with the poly, Mr. Taxman with the poly, it's a sitting with the poly, immigrant with the poly, Mr. Connor, the Gaza is the fittest survival. Now I'm going places to see many faces with different cases. I pass through offices to check out the files and understand the fact. I found I saw fake, so tell me who are the fuck putting all this pressure, destroying people's treasure. You wanna take a measure and hold on your possession and leave out of your position. So don't be like a fool and be rude. And be rude. Italiani con la corna al collo, pistola alla tenga, la canna del gas, l'affitto, le tasse, i figli, l'università. Italiani alla fine del mese, prestando la moglie, poi via in ospedale, il calcio, gli amici, Sanremo, e un anno di fame per due giorni al mare. E sono un po' anch'io alla canna del gas, vi devo dire la verità, perché non riesco ad ammazzare una zanzara che mi sta dando il tormento. Suggerimenti? Non ho Kafka in casa, eh? Non lo so, metti una canzone di Albano, se ha fatto stinguere i dinosauri, cioè. Esatto. Non vorrei che facesse stinguere anche me, però voglio non dire. Devi ascoltarla tu. Mettici gli auricolari e. Perché sei un dinosauro tu, Walter? Scusa. Ma per certi versi, forse un po' sì, c'è da dire. Che dinosauro sei, Walter? Boh. Non lo so. Sono pacioso. Forse l'allosauro. Non lo so. Non lo so. Non mi sento T-Rex. Non mi sento brachio. Mi sento allosauro, che pure vegetariano. T-Rex sono i più tirchi, rinomato. Porello, quelle braccine, che tenero, che tenero, che non, è, non ci arriva alle tasche, non è colpa sua, c'ha le braccine piccole. Stavo leggendo la chat, Girasole sta ponderando questa questione degli auricolari alla zanzara, secondo me vuole provare anche lei. Diciamo, auricolare la zanzara così stai a posto. Sì, dice, le fai sentire un po' di musica. E mentre che si distrae con un brano di Albano, bam, colpo in testa, secca, stecchita. Possiamo provare, possiamo provare. Potrebbe fare seppuku direttamente. Quindi non, cioè, non temere, con Albano puoi ottenere dei risultati che neanche guarda lì. Beh, seppuku è il suicidio rituale. Lo dovrebbe fare l'autore del brano. Lo dovrebbe fare Albano in questo caso. Lo dovrebbe fare la zanzara, Sotterreva anche noi, fidati. Nella sua vigna. Nella sua vigna, esatto. Quindi diventeremo viti. Ma a proposito di vigne, Carmine, tu che bene o male sei da quelle parti, l'hai mai assaggiato il vino di Albano? Sei un contadino. Perché sei un po' contadino, sì, perché così? Vabbè, io non bevo in senso assoluto. Però una cosa che mi ha fatto molto ridere, molto spesso, io non so se questa cosa oltre Roma è valida come usanza, però molto spesso le pazienti regalano ai medici che magari non si sono fatti pagare qualche visita a Natale cesti o casse di vino. L'anno del divorzio tra Romina e Albano, una paziente regalò a mio padre una cassa di vino delle Tenute Carrisi che si chiamava Nostalgia. Boh, io ho domande sull'origine del dove me la farei. No, io, insomma, amici che fanno, insomma, uso di alcol un po' più di me o che sono estimatori del vino ne parlano mediamente bene. Cioè, diciamo un vino come un altro, niente di eclatante. Sì, insomma. Non è manco, non è tavernello, però. Insomma. Dovremmo faccio il cusella della situazione e dico sa di felicità. Vabbè ragazzi, io devo andare, scusate, ciao, eh. No, però devo dire che sa di felicità po è un po' troppo, cioè è troppo costruita. Cusella è più instant, come dire, la spara più grezza. Questa c'ha tutta una sua elaborazione. Cusella, il potere. Cusella, io lo so che lui ce l'ha il potere, ma non si applica, cioè gli manca l'estrosità laziale. Vabbè, ma io non sarò mai come l'originale, ovvio, cioè la devo un attimo sporcare per la mia esperienza, ecco. Qui abbiamo solo Originapoli, originale non abbiamo nulla. Ah. Onesto, certo. E insomma, ragazzi, vabbè, quindi Noi ci eravamo messi a riflettere prima del brano, come abbiamo detto oggi è una puntata tutta di numerologie, cabala, estrazione del lotto. Quindi a questo punto io vorrei chiedere al buon Lobby se ci dà la cinquina vincente da giocarci domani sulla ruota di Napoli. La cinquina vincente ve la do subito. O vogliamo fare l'ambo secco? Praticamente il nome, il nuovo nome che hanno dato, cioè lo sapete che Elon Musk e Grimes hanno cambiato il nome al figlio. Sì, ho visto per la prima volta le foto della compagna barra moglie barra congiunta, diciamo congiunta che non sbagliamo, di Elon Musk. Congiunta. Tutto a posto, cioè nel senso vabbè così. Vabbè, dicevi. Hanno dovuto cambiare nome, praticamente. No, praticamente per le leggi della California non si possono. Sono ammessi dei trattini all'anagrafe, ma non dei numeri romani. Quindi invece trattino. Il nome originale era EX Ash, cioè quella AE, quel dittongo, quella X-A12, e il 12 non è più 12 arabo, è 12 romano. E così hanno tradotto l'escamotage. Quindi XI praticamente. Quindi il nome così all'italiana è XAEAXI. Perfetto. XAEAXI. Aspetta, ricordatemi una cosa: è maschio o femmina l'erede della dinastia? No, no, è importante. Non ha importanza, con quel nome puoi essere qualsiasi cosa. No, nel senso che se maschio lo chiameremo secco, se è femmina la chiameremo secca, perché non c'è. Secondo me io penso che lo dovremmo chiamare Fratelli o Fratellina. Fratelli, bella Fratelli. Bella così, Fratelli. Tipo glielo chiedevano tipo su Twitter a Grimes, se maschio o femmina, lei si faceva tutto di pippone, ma tipo Monty Python, ma è troppo presto per attribuire dei ruoli, vedremo poi successivamente, poi certo, gender fluido, diciamo. Gli hanno chiesto a Elon Musk che cosa è maschio o femmina. Maschio. Maschio. Hai il pene. Dice, guarda, non lo so, però il pene potrebbe essere diciamo un'indicazione quantomeno somatica, perché ricordiamo, insomma, ma ormai Girasole non si può essere. Dice di scriverlo. Numeri. A proposito di altri numeri, ma sto fatto ieri che i morti ci sono stati, non ci sono stati in, ma sembrerebbe non ci siano stati effettivamente. Sono tornati indietro. No, è che il teorema Galler ha cominciato a provocare le prime resuscitazioni, come si dice? No, secondo me è stata gente che si è rifiutata morti, di morire. Se tu metti due morti vicino ad un vivo, il vivo muore. No, ripetila Marco, scusa, è complicata, dovresti... Se tu metti due morti davanti a un vivo, il vivo muore. Come funziona? Beh sì, certo, devo chiaro, però se metti due vivi accanto a un morto, il morto risuscita. Trasmette la morte. C'è una profilassi contro la morte, cioè non ne usciamo, cioè non riesco a trovare una soluzione. Io comunque, ragazzi, ho trovato una notizia che mi ha suggerito Google, ma non so se è vera, sto cercando, ma non è vera. Io provo a dare lo stesso. Ma perché sì, tanto non è che di solito ci preoccupiamo di verificare. Nel teorema Darwin. Allora, secondo questa... Facciamo anche nomi e cognomi, visto che ci siamo. Vai. Allora, questa notizia l'ho presa da New Notizie ed è pubblicato da Roberto Naccarella. Sì, nomi e cognomi. Devi sta zitto, piano. Comincia così. Piano. Vogliono diventare Spider-Man. Niente. Si fanno mordere dal ragno, ricoverati tre fratellini. E doveva andare così, fratelli. Doveva andare così, fratelli. Doveva andare così. Raga, io mi faccio risentire, fratelli. Raga. Senza il ragionare attivo, piotta. Buoni, raga. Buoni. Mi manda in busta, è un problema. Una piotta e 10 così. Terza marcia. Non ci sono problemi. Vi insegno a guidare. Quando il semaforo è rosso, si fa così. Pronto, mi sentite? Qua, sì, può darsi. Che dici, fratelli? Che stiamo a parlare piano. Se stiamo a muovere piano dentro casa al buio, perché c'è la riunione dei condominio, però forse si sono scordati. Allora non dovete fare rumore, che se scoprono che ci siete, vi imboccano, eh? No, se ci sentono che siamo svegli, ci chiamano, capito? Allora, niente. Stiamo tutti zitti, buoni. Pizzi, t'ho spiegato come si fa. Devi mettere il cartello fuori dalla porta. Qui COVID. Esatto, ma non, a questi non gli basta. No, perché gli altri ci mettono sui cartelli, sulle porte loro, pure noi. quindi capito, cioè, sì. Esatto, questi e tu mettine uno sotto, noi di più, noi di più, ma, ti è manco il COVID, li ferma questi quando lo rompe il cazzo, però mi sa che si sono scordati, capito? Tocca che fai silenzio, Pizzi. Poi tutto buio, io tutto spento. Se stavamo a muovere piano, siamo andati in cucina a mangiarsi un po' di marmellata. Zitti, piano. Che i gatti che vogliono mangiare, miau, no, zitti, gatti, pomme, botte ai gatti per farle sta zitti. Insomma, ma scusa, invece di menare il gatto, manda il gatto a fare l'unione di condominio. No, troppo intelligente, mi spiace. C'ha ragione pure te. Manda quello stupido. Si è rimesso a tutte e due un po' stesso livello. Quello che è un po' più io vi saluto, sento che lì stanno a torturare i ragazzini, non si fanno queste cose, però non si gioca con la cena, non si gioca con la cena. Gli dicono zitto bambina, non magna, zitto giù botta. zitto già nel condominio, zitto. Ciao Pizzi, ciao. Buonanotte. E niente, questo sottofondo jazz ci riporta, diciamo, ho dato un calcio rotante, un roundhouse kick al microfono, ma insomma spero non si sia sentito troppo. Oh, dicevamo ragazzi, vabbè, insomma è la serata dei grandi numeri e anche dei numeri importanti. Non so se Leo ci stava ascoltando quando abbiamo iniziato, abbiamo introdotto il fatto che oggi tra i vari numeri che non potevamo non citare c'è il fatto che oggi è il Towel Day. Vi ascoltavo, sì, certamente. Di conseguenza tu sai che in quanto ultimo arrivato in diretta hai il dovere di interpretare una poesia Vaughan. Una che? Ecco. Dicevamo, non ho sentito. Una poesia Vaughan. Vado via un attimo che c'ho un secondo da fare di sopra, perché allora capite, no? Ecco la poesia. Vabbè, allora facciamo una cosa, io ti faccio ascoltare un contributo, appena torniamo in diretta ce ne parli tu, proprio tu. Sei pronto? Se lo sento, va bene. Vai. Dormiglioni di tutto il mondo, unitevi, questo è il podcast per tutti voi all'ascolto, per tutti voi che... cosa? Dicevo, questo è il podcast che fa per voi, per tutti voi che siete al volante, o in manovia, o in ufficio, o in fila alle poste, o... Eccolo! Insomma, per tutti voi che vorreste tanto un morbido cuscino su cui appoggiare la testa, ma che volenti o nolenti dovete restare svegli, perché... La vita è difficile. Finisci tu. Morfeo, il talk show per dormiglioni con cui restare svegli. Su Runtime Radio. Ma dai, svegliati. Che figura ci facciamo? Ma quindi, Leo, fammi un po' capire. Anzi, facci un po' capire. Quando è che va in onda Morfeo? Allora, io ho cercato di organizzare qualcosa, ma innanzitutto qui il signor Lobby ha deciso di pisciarmi all'ultimo. Io ce lo volevo in questa nuova puntata e niente, mi ha detto no, non me va, non me va. Zitto, sto schifo, lavorando mi fai schifo al cazzo, mi ha detto a un certo punto. Ma come, questo sodalizio che è nato durante il lockdown, la nuova coppia d'oro di Runtime? C'era solo sesso, evidentemente. No, era solo un calesse in realtà, vabbè. Questa altra citazione del fu del compianto Troisi. Massimo Troisi, sì, insomma, pensavamo tutti fosse amore, invece era lobby frontali. No, non era così. Era lobbo frontale. Era lobbo frontale. Beh, meglio lobbo frontale che lobbo posteriori, ti pare? Dipende dai gusti, io. Beh, certo. Non lo so, sono aperto ad altre esperienze, ragazzi. Certo, aperto a nuove esperienze. Come, mi dicevo, producendo la aperto. Io fra poco ve la potrò leggere. Cosa? La poesia Vaughan? Esatto. Marco, tu sei consapevole di cosa succede se leggi una poesia Vaughan? Io non la ricordo. Mi scoppiano gli auricolari. Sì, però è tradotta, quindi potrebbe essere che va bene. Leggi, vai, deliziaci con questa poesia Vaughan. Sto facendo, stai tranquillo. Poi quando sarò pronto la leggerò. Vabbè, facci sapere, facci un colpo di telefono quando è, insomma. In tutto questo volevo informarvi che mentre aprivo un sito con le ultime uscite dei fumetti, ho appena scoperto che esiste un crossover tra Transformer e Ghostbuster, e c'è la Ecto 1 versione robot. Me lo sto comprando adesso. Ma è una cosa moderna? È una No, 2020 è uscito questo. Ah, quindi ok, vabbè, d'altra parte. Sto tirando su, giunge a carrello. Piccole gioie. Sì, sì, assolutamente, cioè, ci tengo proprio, ragazzi. Sì, proprio è da avere, insomma. Sì, sì. Che poi i Transformers sono... Per i Ghostbuster o per i Transformer? Per tutti e due, in realtà, sono due mie fissazioni. No, figuratevi, io non mi ricordo se l'aveva mai visto. Comunque, una volta stavo affrontando il discorso Ghostbuster con mia moglie, che non riusciva a capire perché io avessi questa fissazione, lo vedessi tipo due volte l'anno, eccetera eccetera. Gli ho dovuto spiegare che io da bambino avevo veramente tanta paura del soprannaturale, e mi passò vedendo Ghostbuster perché vedevo delle persone che affrontavano una cosa che mi terrorizzava con una cosa che capivo, la tecnologia. Quindi pensavo, se questa cosa funziona, allora io sono a cavallo, non mi può fare niente nessuno. Quindi mi sono affezionato a quel film tantissimo, e da allora qualsiasi cagata con il marchio Ghostbuster, compreso il remake al femminile, no, quello male. Proprio non si può guardare, no, io prendessi un colpo a Mike Figgis lì dove si trova, perché veramente non si può guardare. Culpa, io mi sono anche andato a vedere il film al cinema, ma anche io, quello è il problema, per quello sono arrabbiato. E sapete, l'unica cosa che mi è piaciuta è che alla fine fare. Se ci metti molto molto sforzo puoi incastrare quel film nella continuity dei Ghostbusters. No, non puoi, per il semplice, secondo me, parere personalissimo, per il semplice fatto che ad esempio Bill Murray e Dan Aykroyd interpretano due personaggi alternativi, quindi è inevitabilmente allora quando loro incontrano il sindaco di New York che è l'ex padrino, tra l'altro, lui dice una cosa, dice, vabbè, ma questa cosa che voi state affrontando è successa un sacco di altre volte, l'abbiamo sempre coperta. La mia sensazione è stata che in qualche modo poi volessero infilare una roba del tipo, sono loro sotto mentite, abbiamo fatto l'identità, sono sotto copertura. Secondo me è un universo alternativo. Sì, sicuramente, però alla fine si era lasciato la porta aperta, perché quando Dan Aykroyd fa il tassista e vede Slimer che passa, gli dice, non si preoccupi, è un vapore a piena errata di quinta classe. Ah, beh, sì, sì, quella è la citazione. Tra l'altro stavo dicendo, proprio perché tu hai raccontato questo episodio della tua infanzia, grazie al quale hai cominciato a comprendere una cosa che non capivi grazie ad una che capivi, che è la tecnologia, che tu è da quel momento che utilizzi il pancake come unità di misura universale, giusto? Assolutamente, a parte che io la storia del pancake, i miei colleghi che purtroppo non ci ascoltano, te lo possono confermare, la ripeto spesso. Che poi non è in originale non era un pancake, che cos'era? Un Twinkie? È una merendina che tra l'altro... Sì, è un Twinkle, credo, no? Twinkle, sì. Non scade mai. Praticamente sì, non ha una data di scadenza. Una c'è anche su Zombieland, se non Zombieland, sbaglio. Zombieland. Anche in Wall-E. Si vede in Wall-E perché il robot ci infila il bagarozzo dentro per farlo nutrire. Si vede in Sausage Party, è uno dei vecchi saggi. C'è anche in... Non vorrei dire cazzate, ma anche in Umbrella Academy. Dove sì. lui dice, non è vero che non scadono mai, no, comunque è una merendina tuttora commercializzata negli Stati Uniti, è la loro merendina per definizione. Oggi sono 7 anni, io 7 anni fa ero a New York in viaggio di nozze e l'ho voluta mangiare mentre stavamo lì, fa schifo, è una cosa di una... Lo sai che stai ancora digerendo? Esatto, in realtà tu potresti non mangiare da quel giorno, hai energia illimitata. È probabile che io ce l'abbia ancora in circolo, però sì, ti assicuro, ho mangiato come girà come un alien dal tuo sterno, probabilmente. No, mi ricordo che ci eravamo fermati a comprare l'ombrello in un chiosco tipo quelli dei giornali, che lì c'hanno di tutto. E siccome c'avevo un po' fame, francamente, anche perché stavo sballato per il orario. Okay. Ho visto che c'erano delle merendine, c'erano alcune che conoscevo, poi ho visto sta affare. Ho detto, vai, questo l'ho sempre voluto assaggiare. Ho dato un morso e me ne sono pentito immediatamente. Cioè, proprio ho sentito la glicemia che mi si innalzava. Sì, sì, guarda, io... Ogni tanto dei trascorsi mi capita ogni tanto di avere mi capitano tra le mani dei prodotti che arrivano dalla NATO, l'ex NATO di Bagnoli, comunque ancora si trovano. E negli anni passati era più semplice, però ancora ci sono dei negozietti che vendono tutti questi prodotti che vengono importati per le truppe NATO, per le truppe americane delle basi NATO in campagna, ma che poi insomma vengono fatte girare anche in negozietti di Napoli e provincia. Ma delle cose, ragazzi, che veramente, cioè, definirle zuccheri condensati è poco, no? Zucchero e burro praticamente, non, ma delle cose veramente ai limiti dell'immangiabile, che però per loro sono buone. Guarda, io c'ho, vabbè, voi sapete, mia moglie che è appassionata di cucina, quando siamo andati a New York lei aveva un obiettivo, che era quello di andare in una bakery di cui aveva sentito parlare benissimo, per provare sta cacchio di torta che, di cui tutti per... com'è che si chiamava? Magnolia. Giustamente intervenuta, ci siamo fatti la fila, abbiamo aspettato eccetera eccetera, alla fine le ha dato due forchettate e mi ha guardato dicendo: troppo dolce. Cazzo, sì, sì, no, ma ci credo. Gli americani non hanno proprio. Devono fare esagerare in tutto, anche nell'uso, nell'utilizzo dello zucchero, poi senza un perché alla fine. Non è che te lo. Ma sai, invece, una cosa che invece ci siamo chiesti perché. Ci siamo chiesti una cosa che poi ho trovato una spiegazione solo in Italia, perché poi l'idea di venire a cercare il motivo mi è venuto solo quando siamo tornati a casa. Praticamente invece tutta la roba che abbiamo mangiato a pranzo, il salato, a noi sembrava povero di sale, però abbiamo notato che mettevano sempre ste saliere belle gonfie a fianco a tutto quello che ti portavano. In realtà loro, tipo per motivi legali, devono tenere il quantitativo di sodio che mettono nelle pietanze entro una certa soglia, poi se l'aggiunge è colpa tua, perché se tu vai a mangiare le patatine tutti i giorni e ti fai venire il colesterolo a 6.000 e la pressione a 3.40 la minima, non deve essere responsabilità loro che di sale mettono il giusto, è tua che l'hai aggiunto. Quindi la roba tendenzialmente non era salatissima, però ti potevi aggiungere il sale sopra a piacere. Cioè, in sostanza, non ti puoi far venire l'ipertensione, ma il diabete sì. Sì, ma penso che con gli zuccheri, almeno fino ad allora, ti parlo di 7 anni fa, forse erano più permissivi. Ma non capisco però perché, non capisco questa sorta, come dire, di paradosso. Lo zucchero in eccesso è molto più pericoloso del sale in eccesso, e gli americani veramente, cioè la Coca-Cola ce lo insegna, ma voglio dire, tutti i grassi idrogenati, tutte le panificazioni che sono praticamente artificiali, lì sono pienissime di zucchero. Non riesco a capire perché quello non va bene. Cioè, perché quello possa andare bene e poi il sale no? Probabilmente perché hanno fatto prima la lotta all'ipertensione e gli zuccheri ci sono arrivati dopo. Poi dipende anche, sinceramente. O forse perché in Big Pharma il diabete fa guadagnare di più. Dalle varie altre lobby. Eh sì, le famose lobby. La lobby del diabete, la lobby dell'insulina è più potente di quella dei beta bloccanti, non sappiamo. Esatto. C'era un bellissimo post su una di quelle pagine di praticamente gli italiani che si incazzano vedendo i piatti cucinati negli altri paesi, e c'era sta roba che era una sorta di pizza con sopra qualsiasi cosa messa sopra, e sotto un italiano che commentava: perché mangiate cose come se aveste un'assistenza sanitaria gratuita. Beh, noi abbiamo assistenza sanitaria gratuita, ma la pizza ananas e gamberetti probabilmente non la mangiamo lo stesso, insomma. No, si rifiutano di fartela e ti denunciano. Beh, meno male. Per quanto credo che se vai da un Pizza Hut o da un Domino's, sapete che stanno cominciando ad aprire i Domino's anche in Italia, non so con quale coraggio. Però d'altra parte, se no, ci sono riusciti con... Non apra Starbucks più locali, io ci andrei, a me Starbucks piace. Ci stanno provando, hanno secondo me una strategia d'espansione, però è chiaro che devono farlo in zone turistiche, perché comunque, per quanto vendano acqua e zucchero, quindi i costi reali siano bassi. Io dopo averlo provato, perché io ero partito con lo stesso pregiudizio, dopo averlo provato non è vero, c'hanno una varietà infinita di roba, nella media del prodotto industriale buona. Tant'è vero, vabbè, io poi mangio molto semplice, però per esempio la torta al limone era buonissima, difatti mia moglie ha trovato la ricetta e me la rifà spesso. Però devo dire che i frullati, io la cioccolata calda non l'ho provata perché ci siamo andati praticamente a giugno, faceva freschino. È un gran casino se te bevi la cioccolata calda, rischio che devi correre via verso, esatto, roba che non hanno di spiccia casa. Madonna. Però devo dire, tutto il resto, tipo c'erano delle granite molto buone. Oddio, io ho provato quella gusto lime, sapeva di Nelson in piatti. Ecco. Però in Clelia, che ha provato roba un po' più saporita. No, però attenzione, io non è che abbia dei pregiudizi. Il problema è che per l'italiano medio, vabbè, diciamo che partendo dal, come dire, dall'assunto che Starbucks è sinonimo di caffè, mettiamola così, poi in realtà bevi tutto tranne che il caffè. Però per l'italiano medio il caffè è sacro. Se ce lo sdoganassero, ce lo facessero passare come, diciamo, un'alternativa a quello che per noi è il caffè, ma che non è un caffè, quindi i frappuccini, quindi latte cioccolata, frutta, quello che sia, piuttosto che altre cose, allora sì, possiamo cominciare a dargli tutta la sua dignità, che poi siano assolutamente bevande ipercaloriche piene di zuccheri, però questo rimane, ecco, come è forse un po' troppo per l'abitudine italiana. Sai una cosa che ci ha spiegato il ragazzo italiano che ci ha fatto da guida, che era un ragazzo di Arezzo molto simpatico tra l'altro, cioè lui diceva: non affrontate Starbucks come mi vado a prendere il caffè, perché per voi esatto. Il caffè è una bevanda da passeggio, perché qua d'inverno fa freddissimo, loro si pigliano il caffè da mezzo litro e se lo bevono camminando, perché se c'è una cosa che abbiamo notato è che, vabbè, a Los Angeles molto di meno, però i newyorkesi camminano come i dannati. E fateli 4, tra virgolette, 4 chilometri a piedi camminando, perché ti va col freddo che fa New York d'inverno, e quindi sono andati avanti con quello. Difatti lo stacco che notammo noi è che passando a Los Angeles il menù proposto era diverso, c'era molto meno caffè, molte più bevande bio da Starbucks proposte. Beh, anche perché c'è anche la cultura del bio, quella tipica da, diciamo, appunto californiana, hollywoodiana, di conseguenza il prodotto, sì. Chiaramente l'offerta si adatta al tipo di target. Bisognerebbe capire in Italia uno Starbucks cosa può andare a proporre. Poi in realtà a Milano credo che l'abbiano aperto, quindi bisognerebbe magari cominciare. Hanno aperto quello top dove fanno la torrefazione di roba raffinata, sì, eccetera. Sì. Quello generalista non lo so, mi pareva dovessero aprirlo, ma io sentivo, sapevo che dove era, pensa che quando io sono tanti anni fa, quando lavoravo in un'azienda grande, a un certo punto arrivò a lavorare da noi un manager che era un ex di Autogrill, e ti sto parlando ormai di più di 10 anni fa, e lui la si stava che avevano il marchio lui si stava occupando di portare il brand Starbucks in Italia in concessione, c'erano tutti gli accordi e tutto, però alla fine a quanto pare Autogrill all'epoca preferì non lanciare il prodotto, non lanciare il brand, quindi questo non lo so. Senti, c'è un libro di marketing, non mi ricordo il titolo, ce l'avrò qua da qualche parte, dove questo caso veniva proprio analizzato, cioè che Autogrill prese i diritti di sfruttamento del marchio, che fece uno studio per lanciarlo in Italia e che si fermò non perché fosse controproducente, ma perché avevano paura che cannibalizzasse un altro marchio del gruppo Autogrill, e avevano paura che ci fosse, tra virgolette, la rivolta dei baristi, perché Starbucks pretendeva che il livello di accoglienza nelle sue sale, anche se era un marchio in concessione, per non toglierti i diritti, fosse pari a quello americano, che, detto tra noi, è altissimo. E cioè, puoi stare là a cazzeggiare quanto ti pare, in un bar italiano la cosa si fa un po' più complicata, quindi per tutta una serie di fattori decisero di, tra l'altro l'hanno pagato il marchio per un po', sì, questo ragazzo si è ripreso allo scadere del contratto, non gliel'ha rinnovato e ha cominciato a espandersi fuori. Comunque, per la cronaca, questa è una notizia che poi non so quanto, diciamo, quanto è stata modificata dall'emergenza Covid eccetera. In teoria a Roma lo Starbucks Core dovrebbe aprire nella zona dei Musei Vaticani, era già previsto, i locali sono stati già presi, hanno preso, se non risbaglio, un locale con 11 vetrine, una cosa veramente veramente grande, a Viale dei Bastioni di Michelangelo, quindi aspettiamocelo, probabilmente potremo andare a provare insomma nella zona di Borgo Pio anche noi tra qualche mese un prototipo. Comunque, cosa hai detto? Scusa, zona di? Dei Bastioni di Michelangelo. Ah, beh, no. Avevo capito un'altra cosa. No, no, è praticamente Musei Vaticani. Ma c'è un borgo? C'è un borgo lì vicino? Bio. c'è un borgo bio praticamente. Era molto simile a un altro borgo, però questo è più la lore di Runtime the Notte. Eh sì, beh. Borgo bio, infatti Girasole subito ha risposto borgo pio. Borgo pio, ragazzi, che non tutti possono avere la fortuna che abbiamo noi a Roma di avere borgo pio, di poterlo dire con una certa scioltezza, che tra l'altro porta, conduce a Piazza San Pietro, quindi voglio dire, come dire, siamo fortunati a Roma, bisogna dirlo. È tutto un cerchio. Certo, è tutto che si chiude, esatto. Tutto un raccordo anulare. Na. A proposito, ragazzi, l'avete visto il ritorno di Vulvia nella partecipazione di Corrado Guzzanti o Guzzanti, come la volete la Z? Ma non mi ha fatto particolarmente ridere. Ma devo dire che l'ho detto anch'io che questi sketch, queste pillole di comicità che hanno organizzato autonomamente adesso Guzzanti, prima Mastandrea con la compagna e altri, per fare del supporto a Propaganda Live, a me ma lo stesso Pennacchi sinceramente non mi stanno facendo ridere quanto vorrei. Forse si comincia a vedere la differenza di quando un prodotto viene creato dagli autori e interpretato poi dal caratterista, piuttosto che di quando c'è una sorta di autogestione di certi personaggi. Ecco, secondo me non hanno dato il meglio di loro in nessuna di queste declinazioni. Poi non so, chiedo anche il vostro parere. Io te l'ho detto, ho visto soltanto una partecipazione, non so se ce ne sono state altre. Ho visto uno sketch di 2-3 minuti. Se tu hai visto quello in cui c'era Vulvia, hai visto l'ultimo. Una battuta, ma poi il resto non ha praticamente detto niente. Però che te devo dire? Magari sono io. Chi può dire? No, siamo già in due, insomma. Tantissimo, magari ha fatto dire tantissimo, ma noi no. Cambia il tempo ma non ho, diceva la canzone, insomma. Quindi dobbiamo capire che noi ormai andiamo a cercare probabilmente quelle cose che ci hanno fatto ridere qualche anno fa, e speriamo sempre che si possano ripetere, bissare certi successi. Ma ormai, ormai è Amarcord, giusto Leo? Beh, io mi ricordo, adesso riprendendo l'esempio che hai fatto di Vulvia, io ai tempi quando ero piccolino la vedevo, insomma, non capivo benissimo tutto quando ero piccolino, dicevo, capito, che fatica. Ero piccoletto, però essendo sprovvisto di televisione non ho visto il suo ritorno, quindi non ho idea se abbia riproposto vecchi sketch. No, è un piccolo monologo di 2-3 minuti, assolutamente nuovo, originale, insomma. Ma però il fatto è questo, che quando porti un personaggio così caratteristico, così bello incastonato in quelle due o tre cose che fanno sempre ridere, comunque è difficile effettivamente acchiappare un pubblico nuovo, specie nella televisione di oggi, che comunque cerca di stare al passo con internet, che quindi vede molto male per esempio la riproposizione di tormentoni e di personaggi che facevano ridere ai tempi. Per dirti una cosa che a me mi dispiace molto, però personaggi tipo Aldo, Giovanni e Giacomo a me non fanno più ridere. A me mi facevano spisciare dalle risate prima, però qualsiasi roba nuova che hanno tirato fuori a me purtroppo non mi strappa più una risata sincera. No, ma credo che questo sia un problema condiviso da tantissimi. Non, guarda, però ci sono dei personaggi in realtà che invecchiano benissimo, che sanno invecchiare veramente come il vino. Per dirti, uno fra tutti, Fabio De Luigi. Io quando vedo Fabio De Luigi veramente riesco a ridere sempre, qualsiasi cosa faccia, perché lui secondo me è un anarchico di questo mestiere, perché nonostante abbia vestito tante maschere, così posso rivedere 100 volte gli sketch in cui lui imita Lucarelli e a me mi fa sempre ridere. Vabbè, la parentesi Love Bugs non la considero nemmeno. Sì, a me quando lo vedo che dice che fa le supercazzole, dice paura, a me mi fa ridere sinceramente. Ma perché vedi quelli dell'epoca o lo vedi reinterpretare Lucarelli adesso? Perché anch'io rivedo i prodotti di qualche anno fa continuo a ridere. Esatto, pochi anni fa lui fece un'improvvisata Zelig e con del materiale nuovo, credo che, cioè adesso non sono andato a controllare, però bene o male era rimasto nello stile di quel Lucarelli lì, però portando sempre nuove supercazzole, nuove storie strane, così interagendo anche con i presentatori, quindi facendo una roba meno alla Jalappas e più appunto alla Zelig, più alla monologo di Zelig, però la qualità per me era rimasta invariata. sostanzialmente. Ci sono dei personaggi che sanno invecchiare con le loro maschere, secondo me. Guzzanti con Vulvia, che era perfettamente incastonato in l'ottavo nano, questi programmi così, secondo me è invecchiato molto molto male. Però c'è da dire che perlomeno per la mia generazione, ci passiamo qualche anno a questo punto evidente, però per le generazioni come la mia, anche se quel personaggio poi non è più stato riproposto se non diciamo in rarissime occasioni, è diventato scolpito nella mia memoria, perché se tu mi dici imbuto, cioè parte tutta una serie di, come dire, di voli con la mente a quelle battute, e sono veramente scolpite nella pietra. Ma così come, non so, se io ti dovessi dire a che ora mi sono svegliato alle 7:15, la bambina ha vomitato, cioè tutte quelle citazioni di quella serie, di quel periodo, anche se non hanno avuto seguito, perché l'ottavo nano, così come Pippo Kennedy Show prima, per esempio, e ti dicessi che ne so, un tennis chandelier, sono tutte battute che mai riproposte dopo e tornano e sono come se le avessi viste ieri, che secondo me questa è la vittoria di un certo tipo di un certo tipo di creatività, che poi ovviamente queste battute non tengono il tempo, nel senso le rifaccio oggi da zero, nuove non hanno nessun effetto, però mi fai rivivere l'emozione che ho provato sentendo la battuta nel 2000, 1999-98, quegli anni lì, chiaramente non le scorderò mai. Secondo me questa è la dicotomia da sollevare, no? Cioè oggi non funzionerebbero, ma se le ripensi a quando hanno funzionato, continuano a funzionare. Bisognerebbe però proporre questo discorso a chi effettivamente non ha vissuto quegli anni d'oro, forse qualcuno che è ancora più giovane di me e che non ha avuto modo neanche di vedersi, che ne so, su YouTube gli sketch vecchi, così metterlo davanti a un televisore e chiedergli: questa roba te fa ride o no? Cioè prenderlo comunque in un momento in cui è assolutamente ignaro di quello che ha davanti e capire se quel modo di comunque di porsi fa ride a te, che lo conosci e che lo hai interiorizzato e che quindi lo rivivi tutta l'esperienza di quando ti fece ride ai tempi, oppure se è qualcosa che è sempre valido, che scavalca i tempi. Perché ripeto, io uso Fabio De Luigi come esempio perché da piccolo comunque lo vedevo, mi faceva sempre ridere. Posso dei comici? Io posso interromperti un secondo, perché poi me lo dimentico, la memoria è piuttosto pesce rosso mod. Ma voi coso? Cioè, stavo per dire il nome, me lo sono scordato. Come cacchio si chiama? Ecco, ho parlato troppo nelle lezioni. Quello milanese che praticamente adesso sta su Agora il lunedì o il venerdì, adesso non ricordo. Gallera? No. Bertolino, Enrico Bertolino. Ma voi vi fa ridere? Su Agora è un bel po' che non lo vedo, però prima mi faceva ridere. Guarda, non è prestato alla comicità. Lui è un manager, lui era un motivatore, era specialista in comunicazione. Sì, esatto, lui si occupava di fare. Lui ha portato in Italia quei motivational tipicamente americani che si utilizzano nelle grandi aziende per fare vendite. Lui viene da quel mondo lì. Però ti dico, ai tempi di Ciro, il figlio di Target, per capirci, piuttosto che quei programmi lì, o Pop Pop Din Din Din, no? Non so se vi ricordate, prodotti Meneghetti. Sì, allora, se anche qui, guarda, è sempre stato sul mediocre, cioè non è che meno dirompente di altri comici, anche sicuramente. Lui diceva di prendere personaggi tra i suoi clienti, quindi insomma, tra l'altro, sì, anche andare piano, sì. No, ora come ora non mi fa ridere per niente proprio, cioè. Ma uno che per esempio non mi fa ridere per niente, mi dispiace che poi si sia anche, come dire, bruciato, adesso sta cercando di ritornare un pochino sulle scene anche giornalisticamente, è Daniele Luttazzi, per esempio. Ma sai cosa? Oggi non ho mai capito cosa era suo e cosa no. Quindi molto non era suo, è quello il problema. Non era suo. Esatto, cioè oggi i crociati contro i freebooter sono all'ordine del giorno. Secondo me lui, cioè, provasse veramente a fare qualcosa di veramente grosso, secondo me non gliela perdonerebbero ancora la brutta figura che fece ai tempi. Ed è un peccato, perché al di là di quelle cose ha tanto da dire, a me piaceva. Io quando ero all'università, e lui l'avevano praticamente già bruciato quasi, no, oddio, forse ancora no, fece uno spettacolo sulla morte di, sì, no, quello era già successo da parecchio, sono anziano, ragazzi, fece uno spettacolo sulla morte di Aldo Moro. è morto anche qualcun altro nel frattempo? Io sono ancora vivo. Guardi, a posto? Leo? No, no. Lobby, rumori, da rumori da parte mia, scusate. Okay, l'importante è che siamo tutti bene, insomma. Sì, siamo tutti bene. Siamo tutti veramente, veramente bene. Veramente bene, sempre per citare i tormentoni. Stavo dicendo, fece uno spettacolo sull'omicidio Moro, altre cose prese dal teatro greco che erano molto molto molto belle. Il problema è che di vederlo mo a fare tra virgolette il professor Fontecedro in televisione Cosmico. È abbastanza. Tra l'altro io spero una volta nella vita di poterlo incontrare Luttazzi, perché gli vorrei raccontare che stavo per essere sospeso da scuola per colpa sua del professor Fontecedro, perché lui una volta fece durante una puntata di Medire Gol parlavano, gli avevano fatto una domanda sulla Divina Commedia e Gialappas, e lui disse una frase assolutamente senza senso e disse: perché secondo voi come la interpretate, come la volete leggere? Non mi ricordo chi era, Gialappas, ovviamente una cosa combinata, cercò di dare un senso alla frase, e lui disse: vedete, io me la sono appena inventata, non siete in grado di riconoscere una frase della Divina Commedia da una supercazzola. Io questa cosa l'ho fatta con la mia professoressa di italiano in seconda liceo, quindi al quarto anno, e lei si è arrabbiata tantissimo e mi ha mandato dalla preside. La quale, mamma mia, proprio sì. Mancanza di ironia, di spirito. Vabbè. No, la povera preside Palmisano, che è venuta a mancare qualche anno fa, che tutto era meno che una persona spiritosa, sembrava. Quando le raccontai la cosa, scoppiò a ridere. Dice: console, vada, per favore, ma non lo faccia più. Vabbè, hai preso vedi quei bei ricordi. Invece che l'ho incontrata, Guzzanti. Ah, com'è? Stiamo a sentire a Luttazzi. Ma so che altro. Ti dico, sì, parlando di università, quando ho fatto la magistrale a Cesena, quindi 7-8 anni fa, c'era la biblioteca che è famosissima, la cosiddetta biblioteca malatestiana. Se ci passate, andate a visitare, davvero la biblioteca più diciamo aperta al pubblico, più antica d'Europa almeno. Però intorno a quella c'è tutta una struttura dove una volta c'era una scuola, un liceo classico, l'hanno tutto riedificato, ci hanno fatto tipo una biblioteca. Cioè, una biblioteca anche moderna con quei libri ci sono i muri alti fino al soffitto e andavo là a studiare, e un paio di due o tre volte lo beccai, stavo pure lui là a studiare. Io in realtà volevo fare, c'era più un mio amico che insisteva: andiamo a chiedere l'autore. Io non gli volevo cagare il cazzo, ho detto: ma non lascio, ma sì, è lui, non è lui. E frattanto si mise a parlare, lascia pure l'autografo, no, molto calmo, molto tranquillo, proprio molto molto alla mano. Poi le altre volte che lo vedevamo eravamo ormai abituati, oh, boh, c'è sta pure lui, ciao. Sì, Daniele. Bello, Daniele, esatto. Abbiamo incrociato lì. Però no, è una persona piuttosto gustosa di persona. Però io non per timidezza, perché io quando vedo le cosiddette celebrità dice: ma cioè, io cago nel cazzo già in continuazione, perché dovrei andare anche a cagli il cazzo? Probabilmente proprio il stesso che era. Intanto scusate, saluto Rizzard che c'era giusto in chat. Cazzo. Ha fatto piacere in realtà essere tra virgolette riconosciuto, essere un pochino. Io devo dire, su ste cose sono un po' più cinico, nel senso che poi andando in giro per Roma capita spesso e volentieri di riconoscere qualcuno, ma a me tendenzialmente non me ne è mai fregato niente, neanche, cioè trovo fuori luogo andargli a rompere le scatole in generale, ma poi anche perché fondamentalmente non ho questa sensazione, come dire: ah, che bello, ah, c'è questo, c'è quello. Tant'è che una volta, non mi ricordo con quale personaggio, stavamo con degli amici in una pizzeria di quelle grandi a Roma all'estate, quindi piene di tavoli all'aperto, e un paio di tavoli accanto al nostro c'era, non mi ricordo quale personaggio famoso, un mio amico a tavola dice: ah, ma quello è. Io lì per lì, che forse avevo già bevuto una birretta o due, me ne uscì proprio con un sonoro sincero, ma neanche ponderato: e sti cazzi. E credo che insomma non sia stato contento il tizio in questione, non mi ricordo neanche bene chi fosse. Però veramente, ecco, se vedo una persona famosa, l'ultimo mio istinto è quello di andarla a fermare per chiedergli foto, autografo, che poi una volta gli chiedevi l'autografo, adesso sei ancora più molesto perché gli chiedi i selfie, che secondo me è una cosa bruttissima. Io solo poche volte l'ho fatto, ma sempre mi ricordo una volta un concerto che fecero in Cilento, gratuito, degli Ieri Storie Tese, durante le prove beccai Faso, e all'epoca ma ce l'ho su diversi libri all'epoca, però questa è la triennale, non mi ricordo che stavo studiando e che esame stavo dando di psicologia. E comunque dissi, ciao Faso, no, fu tranquillissimo, fu lì, disse dai fatti fare un autografo, vabbè. E lui mi scrisse, se proprio ci tieni te lo faccio io, scusa. E lui mi scrisse sul libro, che vabbè non era molto, non era psicologia dinamica, era un altro esame di psicologia, però mi scrisse con un po' di S e super io Faso. Giustamente. Genio. No, ma avete ricordato Roberto Friccantoni, che uè Friccantoni, grande Friccantoni, chiedeva l'autografo ai fan che lo fermavano. Sì, beh ragazzi, ma era avanguardia pura Friccantoni, cioè. No, invece avete ricordato all'università a Urbino, quando ho tentato di laurearmi in giurisprudenza, in realtà lavoravo per una ditta di informatica di nascosto, per diverso tempo c'è stato fisso Silvio Orlando, che penso insegnasse a una scuola di teatro che stava da quelle parti, e io lo trovavo spesso a comprare, io andavo a comprare i fumetti, lui comprava il giornale la mattina. Alla terza volta l'ho guardato e gli ho detto, senta mi perdoni, ma lei è? Mi guardò, sì sono quello del film di Moretti. E io gli dissi, sì guardi, il film di Moretti l'ho visto, si stava riferendo al portaborse, sì. Fatto, io però la ricordo per quanto faceva Emilio l'inviato speciale. Grande Emilio, ragazzi. È così, è bello ricordare, dicendo io sto sperando com'era? Che la gente se la scordi. Ai ai ai, se faccio un figlio ai ai ai lo chiamo Emilio, sempre meglio di Basilio se è una femmina, non so. Vi posso dire che poi quando mi è capitato, ragazzi, siamo una generazione rovinata da certe cose, vi rendete conto? Ma ve lo ricordate lui che gridava a Teo, sei un grandissimo pisquano? Sì, vabbè, erano altri tempi, altri metodi televisivi, insomma. Comunque vederlo fare il cardinale in Young Pope, mamma mia. Poi tra l'altro anche relativamente, diciamo, ben riuscito il fatto che lui si doppia da solo, perché poi ricordiamolo che, insomma, voglio dire, tutto sommato si è retto bene. Il personaggio di Voiello è geniale, ragazzi, è proprio il genio assoluto. Senza fare spoiler, quando dice nella seconda stagione quella frase fantastica, quando dice lei è una persona cattiva, e lui gli risponde no, io sono una persona orribile. Lo so perfettamente. Eh sì, no, è veramente un personaggio che solo dalla mente di Sorrentino poteva nascere, però devo dire che poi Silvio Orlando lo ha, come dire, lo ha sublimato. Oh, nel frattempo ragazzi, vi volevo avvisare del fatto che il buon Rizzat ci ha dato i numeri sulla ruota di Napoli, abbiamo un terno 25 60 38, non so se avete segnato. Ricordate, sì, che sì. Se vincete una donazioncina ce la dovreste fare, certo, come minimo. Mi raccomando, non di un euro, perché sennò sei fotte Patreon. Esatto, esatto. No, scusa, una volta che avete fatto, hanno preso la vincita, conviene che ci fanno la donazione una tantum su PayPal, a runtimeradio@paypal.com, così insomma la fee, il gettone viene pagato una volta sola, però insomma quando ci fanno quei 2-3 mila euro di donazione per noi va bene, insomma, ecco, tranquillamente, insomma. A fronte di centinaia di migliaia di vinci, insomma, cosa vuol dire? Certo. Sì, di bruscoli, perché vabbè, all'otto in realtà non si vince tanto, però insomma, dai, a cavaldonato non si guarda mai in bocca. No, ma vabbè. Mi ha dato una cosa, aspetta, perché c'è il 60, ritornando un pochino di cose serie, dei 60.000 assistenti civici della protezione civile volontari che il governo farà partire il bando. Aspetta, questa bando. Cosa oggi che in parte pensate? È stata smentita, perché a quanto ecco, pare il governo ha detto pare che abbiano, come dire, smentito boccia, nel senso che sia il PD che il Movimento 5 Stelle hanno detto no, noi non ne sappiamo niente. Del resto era una bella cazzata, dai, su, cioè andare a chiedere a dei volontari di andare a prendersi gli schiaffi. Esatto, poi abbiamo tanto osteggiato le ronde padane e mezze fasciste che insomma che ci rompevano un po' il culo con quelle magliette rosse che andavano in giro a rompere il cazzo agli ambulanti e quant'altro, però abbiamo deciso in qualche modo che queste andassero bene, perché? Ma infatti, boh, vabbè, ma tutta, su perché tutte quelle cose la pitturina azzurra come i buffi. Certo. Invece è una colore. Questione di colore, beh, certo. Rosso invece faceva troppo, buffi. Qualcuno sa che fine hanno fatto i puffi del raduno di un paio di mesi fa in Francia? I puffi francesi, secondo me, hanno tutti il Covid. Però, ragazzi, volevo dirvi questo: a Milano il sindaco Sala pare abbia vietato di vendere bevande da sport dalle ore 19 in poi. Ma allora non far aprire, cioè, e questo è il paradosso che io continuo a ritenere ridicolo. Cioè, la politica per farsi bella riapre, però poi fa affidamento a un buon senso, non si sa bene dove conservato, degli italiani che dovrebbero malgrado tutto rimanere a casa. Cioè, allora dico, cioè, mi stai prendendo tre volte in giro, prendi in giro tutti quanti i ristoratori, tutti quanti quelli che vivono del fatto che la gente si vada a fare l'happy hour e li fai riaprire sostenendo dei costi, però sperando e aspettandoti che poi gli italiani non ci vadano a farsi lo spritz. Ma che vuol dire? Cioè, allora metti le palle sul tavolo, fai il politico con le palle, dici: signori, certe categorie merceologiche non possono riaprire perché, come dire, in qualche modo alimenterebbero degli assembramenti che non ci possiamo permettere. Te ne assumi responsabilità, crei degli aiuti per quelle categorie che non fai riaprire e basta. Non che prima li fai aprire e poi li fai fallire perché ti aspetti che nessuno vada a comprarsi l'aperitivo. Io sono veramente agghiacciato da questa cosa. Ma mica sono quello. Sì, citando Sorrentino, li faceva aprire per farli fallire. Esatto. Il potere di farli fallire. Noi a Clelia ci siamo trovati due esercenti di Putignano. Il primo è una gelateria molto buona, la seconda è una pizzeria da sport molto buona, che ci hanno detto la stessa cosa. Ha fatto: sì, è vero, abbiamo riaperto, però al di là delle limitazioni all'ingresso, che vabbè sono gestibili, il problema è che vengono a fare le multe se le persone si accalcano fuori o fanno lunghe file fuori. Quelle come la gestisci? Cioè, c'è stata la gelataia che ci ha detto: io l'altra sera, quando ho visto che c'erano 50 persone in fila fuori, dopo un po' ho preferito chiudere perché volevo evitare, piuttosto, cioè, la multa non mi avrebbe ricompensato, cioè non l'avrei pagata con gli incassi che avrei fatto in quel momento. Certo. È anche una questione di come stanno gestendo. Ma poi perché io esercente devo essere il guardiano di quello che succede fuori dal mio locale, peraltro? Cioè, tutta appunto, una serie di assurdità, quello. Di, come dire, di sostituzione della responsabilità, no? No, ma a quel punto, quello che dico io, almeno nei piccoli centri, come può essere 30.000 abitanti, quello dove viviamo io e mia moglie, siccome lo sai più o meno quali sono i locali dove la sera c'è più fila, manda i vigili a controllare quella zona, ma senza fare la multa all'esercente, falli sgomberare e digli tornate più tardi, insomma, trova una soluzione più soft. Beh, d'altra parte non lo so. Guarda, io a Roma non penso sia fattibile, però so. Ma guarda, devo dire che alla fine su tutti questi scandali da Movida eccetera, Roma per assurdo è una delle città che si sta comportando, non dico meglio perché è meglio un'esagerazione, diciamo meno peggio. Abbiamo visto cose, scene complicate che arrivavano da Napoli, da Perugia, da Milano, da varie città, insomma, in giro per l'Italia. Roma tutto sommato si sta difendicchiando bene, forse, non lo so, il romano è per sua natura più... Siamo tutti spacciati, va. Sì, dici. Beh, oggi io e Gualdi ci siamo presi una lemon soda al bar, potremmo essere già morti, ecco. Dipende, mica eravate... Vabbè, no, eravate solo in due... No, ho capito, c'era la barista, quindi potevamo essere... Poteva... No, ma io penso a quelle decine di ragazzini che oggi stavano nel giardino comunale senza maschera, tutti praticamente... La distanza di sicurezza era di 5 centimetri, una cosa del genere... E che uccideranno i propri genitori. No. Girasole giustamente ci fa notare, ma che le file fuori dal supermercato vanno bene, ma quelle fuori la gelateria no. Manda controlli e fagliela fare in maniera sensata ed attenta, in effetti. Ah, giusto. Per esempio, a sto punto questi signori con Petturina avrebbero un qualcosa da fare. Li metti al servizio, appunto, come servizio d'ordine, appunto, a esercizi commerciali che ne hanno bisogno. E questi al momento hanno un senso, perché si mettono lì a guardare effettivamente una fila che ha senso, che debba essere ordinata, e non andare in giro a spadroneggiare o a non fare assolutamente niente per il gusto di avere un minimo di autorità nei confronti degli altri. Però vedi, Leo, io ti faccio questo esempio. Nella ridente cittadina dove io, Marco e il buon Simone Pizzi viviamo, siamo, diciamo, 45.000 abitanti circa. Abbiamo ovviamente le pattuglie di polizia locale, quindi, diciamo, una volta le avremo chiamati vigili urbani o polizia municipale, che alle 19.30 smettono di lavorare. No, no, no, così posso... per partito preso, così. No, no, no, no, non fanno servizio notturno. Perché? Perché ho visto sabato sera alle 11:30 andare a rompere il cazzo ai locali perché stavano chiudendo e c'era ancora gente fuori. E non puoi immaginare la gente che stava per strada, altro che distanza di sicurezza. E questi giravano in mezzo alla gente che uno c'aveva la mascherina e due no, e andavano a rompere il cazzo ai locali perché stavano mandando, cioè erano chiusi, però stavano ancora con le porte aperte perché stavano a pulire. Ma qui siete aperti, ma qui, ma qua, ma qui. E c'erano i carabinieri con le mascherine in mezzo a tutti questi ragazzini, come ripeto, una mascherina sì e due no, e stavano tutto a posto, tutto tranquillo. Quindi e ho mandato le foto sui nostri gruppi privati, insomma, avete visto la gente che c'è stava. Vabbè, ma quindi, vabbè. Tu hai usato la famosa tecnica dell'inquadratura schiacciata dal basso per far sembrare, è vero? La famosa tecnica del teleobiettivo, eh? Purtroppo no, purtroppo no. E poi che facevi in giro anche tu? Anche tu eri tra quelle persone? Andavo a spargere il virus, però io almeno lo so, voglio andare a spargere il virus, almeno Darwin in qualche modo ne sarà contento. Ma devi andare sempre a braccetto con un altro, da solo che vuoi fare? No, esatto. Nel frattempo, tornando al discorso voi, scusate, ragazzetti, posso fare una domanda e poi mi taccio. Vada. Questi ragazzetti che sono lì al giardinetto, che come ben sai fanno cose chiacchierano, no? Stanno chiacchierando, ma secondo voi le canne le fanno girare o se fanno i personali? È difficile da dire. Bella domanda, in effetti. Beh, se sono congiunti se la possono passare, mi pare di aver capito. Come il tavolo al ristorante, se sei una comitiva di congiunti puoi stare più vicini rispetto a che sei una comitiva di persone che si sono incontrate al di fuori. Però lo devi dichiarare tu di essere un congiunto perché scarichi dalle responsabilità all'esercente. Quindi penso che, voglio dire, se tu dichiari che sei, che sono tutti, che siete tutti parenti, la puoi girare. E comunque fino a due parenti non c'è il rischio, quando diventano tre invece. Esatto. Allora, se tu incontri due parenti che sono parenti tra di loro, ok, tu li incontri, le persone sono due parenti, diventi anche parente tu? Come fai? Beh, in un paese, in un comune come il nostro, statisticamente è possibile, ecco. Cioè, quindi, cioè, no, persone che non conosci, però se tu, se sono tra di loro parenti, sempre per la legge di Waller, cioè diventi parente anche tu? Massimo congiunto. Quante persone parenti devono essere, cioè devi incontrare per diventarne congiunto o parente? C'è un rapporto? Eh sì, si chiama sessuale, però te ne devi scopa, esatto. Uno. Eh sì, è okay. Così. No, per capire, insomma. Tutto chiaro. Comunque non uscire senza maschera, mettetevela in tasca, sempre. Come fosse sempre carnevale. Non si sa mai, uno vi si avvicina, mettete la maschera. Zio Mischi ci racconta un resoconto da pentito di mafia, quasi. Mamma mia, meno male che non abbiamo detto il suo vero nome in chat. In realtà. Aspetta, dove? Perché non lo so, gli ultimi commenti di zio Mischi. Dove dice che lui viene da un'esperienza decennale di volontariato nel nucleo comunale di protezione civile. Ecco qua, perfetto. Me ne sono andato sbattendo la porta. Per i miei ex colleghi, in pratica sono andati a fare propaganda elettorale in questo periodo. Vabbè, si fa. Portando pacchi a gente indicata dall'assessore di turno. Ragazzi, questa è l'Italia. Qua sta facendo bene. Prego. Vabbè, ma si fa. Ma sì. Zio Mischi, avrai un film con Pier Francesco Favino a fare il tuo personaggio, comunque. E chi lo fa? Favino, sempre per citare in questo caso Boris. Vabbè. Una volta c'erano i ruoli per gli attori. Sì, fa tutto Favino. Ragazzi. Vabbè, ragazzi, non so invece se cosa fa Favino in questo momento, però so cosa dovremmo fare noi, perché sono le 22:30, per cui se voi siete d'accordo, io andrei subito ad inserire la speciale sigla di commiato di questa sera. Bella. L'avete capito? Sì. E quindi permettetemi molto velocemente di salutare quelli che questa sera ci hanno fatto compagnia in chat, quindi Girasole, Peppe Rizzard, Zio Mischi, Lobby Frontali, che poi in realtà perché Lobby Frontali? Lobby Frontali è nel cast, come anche Leo Vargion, che però scrivono in chat, mi fanno sballare, io leggo la coda e succede questo. Ovviamente Bad c'era anche Lullaby, che poi a un certo punto, come sempre, si deve essere abbioccata, PRG e così via. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, come saluto quelli che ci hanno fatto compagnia questa sera in diretta al microfono, a cominciare dall'ultimo arrivato, ma solo per un discorso cronologico, Leo Vargion. Grazie mille, è stato bellissimo essere qui e niente, buonanotte a tutti. Dalle Puglie, perché è sempre meglio du Pugli meglio che one, Carmine Puccio Console. Ciao. Dalla ridente Reggio, non diremo mai quale delle due, il nostro Francesco Lobby. Addio e grazie per tutto l'R con zero, fratelli. Comunque da Reggio Decreto penso che sia che venga lui. Appunto, Marco Gualdi dalla sua ridente finestra di Monterotondo. Ciao Marco. Io vengo dalla città con le finestre che ridono. E vi do anch'io la buonanotte con un solenne 42. 42.